ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Mi insegnerò l'amore, a recitar le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poca sta pena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Hey! Hey! :16, l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, da cui trasmettiamo tutti i martedì alle 16. Questa trasmissione la potete anche ascoltare in streaming, come tutte le trasmissioni di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info. O anche dopo, se oggi non avete potuto ascoltarla, o se non avete ascoltato quella delle scorse settimane, o se volete ascoltare altro andato in onda dai microfoni di Radio Onda Rossa, sul sito della radio potete scaricare in podcast le trasmissioni redazionali e anche sostenere questa radio, che è la radio di chi se la sente, di tutte e tutti noi, e che ha bisogno del contributo di tutte e tutti noi. Contributo che può arrivare classicamente su un conto con un bollettino postale, che è il 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56, Roma. Oppure, come dire, con più un'immersione maggiore nella contemporaneità, attraverso il sito e il cliccando su sostieni si arriva al PayPal, insomma qualcosa del genere. Oppure veniteci a trovare, siamo qua in via De Volsci 56, chiamateci allo 06 49 17 50. oradibuco.noblogs.org il nostro blog, oradibuco@ondarossa.info la nostra mail. Est un grand marché, la loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent. E quando ormai l'anno scolastico volge al termine, apriamo anche questa trasmissione con una notizia che non è buona, ma che, come dire, molto caratterizzante dei tempi che ci è toccato di vivere. Parliamo di 7 studenti a cui vogliamo dare la nostra solidarietà, la nostra vicinanza politica. Si tratta di 7 studenti genovesi, cioè perlomeno insomma che si trovavano a Genova, e che sono stati condannati per travisamento in una manifestazione contro la Gelmini. mission quand notre humanité s'est fait hacher notre cœur. Si tratta cioè di persone che risultavano avere una sciarpa sulla bocca, un cappello con la testa un pochino abbassata, addirittura una mano per coprirsi dall'odore acre dei lacrimogeni. E che il Tribunale della Procura di Genova ha condannato con condanne che vanno dai 9 ai 14 mesi di reclusione per resistenza e travisamento. Si trattava appunto di una manifestazione contro l'allora ministra Maria Stella Gelmini, era il 30 novembre del 2010, ricordiamo, insomma, le manifestazioni furono veramente tante per cercare di bloccare quel tentativo di portare a termine la distruzione della scuola pubblica e delle università italiane, che purtroppo però, insomma, almeno è arrivato un po' al capolinea, ecco, nel senso che non è stato fermato quel tentativo. E niente, insomma, leggiamo, la procura non ha accertato che queste sette studenti abbiano partecipato a nessun tipo di azione. L'unica cosa a cui si fa riferimento è che non erano riconoscibili durante il corteo. In quel corteo, fra l'altro, ci fu una carica della polizia, si fa riferimento a quel momento. La carica iniziò senza che fosse stata prima annunciata, fosse stata intimata formalmente, questo hanno rilevato, insomma, gli avvocati della difesa, ma il pubblico ministero Biagio Mazzeo ha spiegato che si tratta, aperte virgolette, si tratta di un provvedimento desueto, cioè quello di dire di allontanarsi prima di caricare, e comunque con tutti i tagli che devono subire le forze dell'ordine probabilmente non avevano neppure la possibilità di portarsi dietro un megafono, ha detto il procuratore. Speriamo non abbiano la possibilità di portarsi dietro le pistole, perché altrimenti qua può succedere veramente qualunque cosa. Comunque si tratta di un provvedimento che è diventato desueto per via dei tagli, e questo è il senso della cosa. E comunque, insomma, fatto sta che in questa situazione, appunto, questi quattro ragazzi pare avessero il volto non del tutto scoperto e quindi sono stati condannati per travisamento. Reato che, se non ci sbagliamo, insomma, permane nel codice penale italiano dal codice Rocco, senza soluzione di continuità. E da questa radio di reati che permangono nel nostro codice penale dal codice Rocco, quindi scritti dal fascismo e poi mantenuti in età repubblicana fino a oggi, ne parliamo spesso, insomma, a partire da quello di devastazione e saccheggio, un reato istituito da Mussolini contro gli oppositori politici, ma che anche, insomma, lo Stato pure repubblicano negli ultimi anni non fatica ad utilizzare. Su questo del travisamento siamo là, insomma, il procedimento è analogo. Vincere. E come dire, ho sbagliato una canzone, ne volevo mandare un'altra e quindi facciamo finta di nulla e la mandiamo, così poi passiamo a un altro argomento. Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parle que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré, craché, et créé un entrave à la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disaient transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leurs plans depuis que des avions se sont crashés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lécher. E iniziamo invece adesso con le notizie, con una piccola rassegna di novità, e la novità, diciamo, forse più rilevante, come molti colleghi sapranno e come molti studenti sanno, riguarda gli esami di Stato, gli esami di maturità e in particolar modo la prova di ammissione ad alcune facoltà a numero chiuso, che sono per esempio medicina, scienze infermieristiche, architettura, ingegneria e così via. E niente, come dicevo, molti di voi sapranno e come abbiamo in parte detto in una puntata precedente, a partire da quest'anno, grazie diciamo all'iniziativa del ministro Profumo, verrà valutato in qualche modo all'interno di quello che è il punteggio riportato nel corso dei test di ammissione, dei quiz di ammissione alle facoltà a numero chiuso, verrà valutato anche il voto di maturità in una percentuale di 10 punti su 100, cioè il test varrà 90 punti e 10 punti, fino a un massimo di 10 punti, verranno attribuiti al voto di maturità. E questo potrebbe essere diciamo un provvedimento anche encomiabile, nel senso che viene riconosciuto, anche se in minima parte, il valore del percorso scolastico dello studente. Qual è il problema? Il problema è che, come era stato anticipato dallo stesso ministro e anche attraverso questi microfoni, in realtà il peso del voto di maturità sarà diverso da scuola a scuola, e sarà diverso da scuola a scuola sulla base di indicatori misteriosamente chiamati percentili, misteriosamente per me perlomeno, che il ministero ha pubblicato ieri per tutte le scuole italiane del regno. Stavo per dire per tutte le scuole del regno, per tutte le scuole italiane, e che forniscono sostanzialmente un parametro di riferimento per quelli che sono i singoli voti, con una banda di oscillazione evidentemente riportati dai singoli studenti nel corso dell'esame di maturità. Sì, in realtà le cose potevano essere fatte in maniera un po' più lineare, e quindi magari anche non condivisibile, però piuttosto chiara: chi prende 100 alla maturità prende 10 punti come bonus per entrare per il test di ammissione a queste facoltà, chi prende 90 prende 9 punti, eccetera. Non è stato fatto così. No. Perché? Probabilmente perché si è voluta sottolineare la somma sfiducia del nostro stesso ministero nei confronti delle procedure dell'esame di Stato, sì, e certo, della categoria docente in generale. Beh, direi di sì, perché, ma forse c'è anche un altro motivo, comunque se non è la causa è certo l'effetto: far odiare la matematica, perché la parola che è entrata in questi giorni, in queste ore, sta entrando nella testa degli studenti dell'ultimo anno, quelli che stanno per fare l'esame di maturità, è percentile. Il percentile è una brutta cosa, apparentemente, diciamo, è un indicatore, un indice statistico, e ci dice sostanzialmente qual è la soglia per essere i primi della classe. E la scoperta di Profumo e di chi pensa al suo posto, chi ha pensato al suo posto questo meccanismo molto matematico, è che il 10 preso in una scuola, in una classe, in un anno, non è lo stesso, non vale allo stesso modo che del 10 preso in un'altra scuola lo stesso anno. E quindi noi abbiamo sul sito universitali.it una tabella in cui ci si può leggere, anzi si possono leggere sostanzialmente le medie dei voti di maturità di tutte le scuole d'Italia in base alla media dell'anno scorso, ovviamente i risultati acquisiti sono quelli dell'ultimo anno. In base alla media di quella scuola l'anno scorso, noi sappiamo, io che sto per affrontare l'esame di maturità, so che se voglio un bonus, il massimo bonus, devo prendere 100, oppure posso anche prendere 80. Quindi diciamo la deformazione di questo meccanismo è che abbiamo fatto dei calcoli nelle scuole in cui lo scorso anno tutti hanno preso 100, prendere 99 significa non valere nulla e quindi non aver diritto ad alcun bonus, mentre nelle scuole in cui tutti hanno preso 60, 70 lo scorso anno, quindi diciamo i voti sono stati modesti, basterà prendere 80 per prendere il massimo. E qual è la logica sottesa, mi pare, correggimi se sbaglio, a questo ragionamento? La logica sottesa è che se molti ragazzi vanno bene in una scuola è perché chi li ha valutati è stato eccessivamente generoso, e quindi c'è la necessità di riparametrare il tutto riportandolo a criteri che dall'alto evidentemente sono ritenuti omogenei in base a una mediana, cioè al calcolo di come di media vanno gli esami di Stato sul territorio nazionale. Il che però cosa viene viene a significare che i ragazzi che fanno la maturità quest'anno, a partire da adesso, sanno questo, cioè che se i loro colleghi dell'anno precedente sono andati male, loro sono fortunati; se i loro colleghi dell'anno precedente sono andati bene, loro sono molto sfortunati. E questa è la prima conseguenza, direi. La seconda conseguenza è che in quelle scuole dove obiettivamente si va male, perché la preparazione è obiettivamente scarsa, sì, per tante ragioni, pensavamo per esempio insieme a quelle che sono le scuole paritarie, per sì, esempio a un certo tipo di scuole paritarie, quest'anno gli studenti risultano avvantaggiati. Non so se sbaglio, forse tu puoi fare anche qualche esempio. Beh, sì, scorrendo i dati noi possiamo vedere che all'Istituto Tecnico Talete di Acerra, per essere primi basta prendere un 70, quindi evidentemente i voti dell'anno precedente, lo scorso anno, sono stati bassi. Mentre al liceo classico, prendo sempre uno statale, il liceo classico a cui a Roma di Viale del Vaticano, che non statale appunto, con 99 non si prende nessun bonus, perché evidentemente l'anno scorso hanno preso tutti 100 e 101. Oppure anche al liceo di Frosinone non statale, diciamo, 101, scusate, 100 e lode. Diciamo, hanno risolto che il 100 e lode diventa 101. Oh, sì, io direi che c'è questa come dire, hanno inventato questa cosa che parrebbe molto matematica, molto precisa, eccetera, ma in realtà noi ne avevamo dato, come dire, notizia qualche trasmissione fa, ma adesso le presidi sostanzialmente si sono un pochino ribellate, perché magari, soprattutto le scuole statali, magari per tenere alto il nome della propria scuola hanno tentato di tirar su i voti, fare attività molto alte e raggiungere alti livelli. Chi ha raggiunto un alto livello lo scorso anno, quest'anno è nettamente svantaggiato. Quindi non so quali possono essere gli accorgimenti per queste persone che, condividendo l'idea di misurare tutto, di valutare in questo modo il sapere, le conoscenze, le competenze di un ragazzo, una ragazza di 19 anni, in realtà contestano il fatto che i propri studenti si possano sentire un po' demoralizzati dal fatto che devono misurarsi non con le proprie capacità, ma con quelle degli studenti dell'anno scorso, neanche i propri compagni. Quindi noi avevamo commentato che diciamo, c'era un'istigazione a non passare più i compiti, diciamo, tra compagni, non collaborare, anzi danneggiare il proprio compagno, e adesso bisognerà danneggiare quelli che stanno davanti a noi. Quindi non so, una guerra tra poveri che non so, nella mente di chi ha elaborato questo progetto, che la neo ministra sta, non so, starà valutando, avrà detto, ha già parlato la neo ministra, ha detto, sì, che è un po' farraginoso, che va un po' snellito. No, ma non è farraginoso, diciamo, la parola incute timore, percentile incute timore, però è molto semplice, diciamo, matematicamente non c'è nulla di complesso, diciamo che forse poteva dire che è sbagliato. Non l'ha detto. E questa idea, forse alla base c'è l'idea che le scuole devono migliorare, no? E quindi io l'anno scorso ho preso 80 come media, se prendi 81 ti premio. In realtà forse non abbiamo ben capito. Io non credo che ci sia, cioè credo che la prima ragione sia un'altra, cioè la prima ragione è che si devono mettere dei mattoncini per arrivare a un obiettivo che si persegue da molto tempo, e che è quello di cancellare il valore legale del titolo di studio. Valore legale del titolo di studio, per chi ci ascolta, significa che se io prendo un diploma di liceo classico in un qualunque liceo statale di questo paese, vale come diploma di liceo classico; se prendo un diploma di un istituto tecnico industriale, uguale, eccetera eccetera, non conta in quale regione, in quale città, in quale sezione, eccetera eccetera, il titolo di studio ha un valore legale di per sé. Ci sono progetti condivisi da destra e da sinistra, cioè è sempre la lettura neoliberale della scuola che porta a questo, che vuole cancellare questo valore legale per fare poi delle classifiche di scuole, per adottare il modello statunitense sostanzialmente, certo. E quindi a quel punto chi si diploma al tasso avrà un diploma che conta, chi si diploma al liceo classico di un paese della cintura romana conterà parecchio meno. Questo ovviamente è una banale riforma iperclassista, perché le persone in genere non scelgono dove vivono e quindi non scelgono che scuola frequentano, e è chiaro che non tutti potranno accedere al liceo classico figo del centro di una città. Parlo di liceo classico, ma si può parlare di qualunque tipo di scuola. questo fatto di inserire questa menata dei percentili mi sembra evidentemente andare nel costruire, come dire, l'accettazione sociale di quello che si sta per portare a termine, cioè la cancellazione del valore legale del titolo di studio. Sì, nel costruire l'accettazione sociale del fatto che un titolo di studio preso in un istituto non è uguale al titolo di studio preso in un altro istituto. Per fare questo si passa attraverso, diciamo, non so come dire, il grimaldello del voto di laurea, per poi evidentemente ampliare quello che è l'attacco. Questo, io sono convinta del fatto che questo sia in ultima analisi il fine, e volando più basso e andando a vedere le ricadute immediate è evidente che questo amplifica quello che è quel processo di concorrenza e di confronto tra scuola e scuola, di cui noi vediamo gli esiti perniciosi, insomma, nei nostri collegi docenti e parlando con i colleghi nelle nostre scuole. E riandando alle puntate precedenti, pensate a che significa, certo, valutare una scuola per confronto tra i risultati delle prove invalsi e poi valutare la scuola per confronto tra i percentili attribuiti e così via, e quanta pastoia veramente all'attività didattica, che è altra cosa, venga poi diciamo attribuita da tutta questa serie di gravami. Sì, se mi viene in mente l'idea di credito, no? Che è entrato nella scuola superiore da un po' di anni e che monetizzava quasi, no? Le attività che un ragazzo, una ragazza facevano il pomeriggio all'interno della scuola o anche al di fuori della scuola, no? E che quindi andava, era considerato un bonus, è considerato ancora diciamo, anche se attenuato, funziona in questo modo, come bonus di punti da portare come dote, no? Adesso per l'esame di maturità. È un'idea, diciamo, che va in questa direzione, quindi chi gioiva, no? Di questo fatto che la scuola prende in considerazione l'essere diciamo le attività, no? la personalità del ragazzo o della ragazza anche al di fuori della scuola, in realtà stava mentendo, voleva dare una, come dire, introdurre sempre questa idea di folle di misura del sapere, della misura delle attività, degli hobby, degli interessi, diciamo che hanno questo esito, oggi hanno questo esito, ma diciamo la cosa viene molto, molto lontano, quindi io non me la prenderei tanto con questo esito, che è veramente un po' ridicolo, quasi fa ridere o indispettisce, ma in realtà questo viene da molto lontano, certo. Quindi chi attacca questo tipo di risultato in realtà dovrebbe andare a vedere dietro tutti i passi che sono stati fatti e che oggi portano a questo tipo, al percentile. Sì, la madre tutti male è sempre la legge sull'autonomia. E detto questo, c'è anche un altro, insomma, lo diciamo proprio in estrema sintesi, ovviamente noi siamo per il diritto allo studio di tutte e tutti e quindi contro il numero chiuso di qualunque istituto universitario. Evidentemente. E detto questo, un pochino di musica per passare ad altro argomento. E adesso passiamo invece a un argomento completamente diverso, che non ha nulla a che fare con quanto abbiamo detto. Volevamo aprire un attimo il discorso su quello che è il problema del TFA, quello che è il problema del tirocinio formativo attivo, quindi siamo saltati alla fine dell'altro percorso di studi, quindi a come si diventa sostanzialmente insegnanti, a quello che è il percorso per diventare insegnanti dopo la laurea. E sapete, perché ne abbiamo parlato insomma anche in occasione del concorso, che fino a un certo punto, fino al 2008-2009 mi pare, per diventare insegnanti c'era necessità di acquisire un titolo di abilitazione che veniva acquisito attraverso la frequenza a un corso biennale con accesso a numero chiuso presso una scuola che si chiamava Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario, con un brutto acronimo SIS. Le tasse erano più o meno come quelle universitarie, quindi sui 1000+ euro l'anno. Sì, io l'ho frequentata sui 1000+ euro l'anno, esattamente. E queste scuole appunto sono state chiuse dal ministro Gelmini nel 2008-2009 e per un periodo di tempo lungo, fino al 2010, non è stato più possibile acquisire l'abilitazione in nessun modo. Quindi ci sono state peraltro persone che hanno continuato a lavorare nella scuola senza essere in possesso di nessun titolo di abilitazione, lavorando direttamente per i presidi. Successivamente si è istituito un nuovo canale abilitante che appunto è stato ribattezzato con un altro acronimo TFA, cioè Tirocinio Formativo Attivo. C'è poco da dire su questo nuovo canale di abilitazione, è a numero chiuso, tutti quanti avrete letto anche sulla stampa quello che è accaduto anche quest'anno nel corso dei test per l'accesso al numero chiuso del TFA. Quello che va sottolineato è che dopo aver superato la selezione a numero chiuso, che è valida per una classe di concorso per volta, quindi io posso essere un laureato in lettere scusate, potrei insegnare su 3 o 4 classi di concorso, ma posso accedere, se non sbaglio, a un solo TFA per volta, e pago tasse universitarie veramente importanti, perché grosso modo non credo neanche vari da università a università, ma ci si aggira intorno ai 2500 euro a corso per un corso che ha durata annuale, che prevede una parte di corso in presenza e una parte di tirocinio. Credo che abbiamo già al telefono, insomma, dall'altra parte, un'iscritta al TFA. Che potrà forse raccontarci che cosa ha significato tutta questa esperienza, personalmente, a partire proprio dall'ammissione al TFA, e che cosa poi corrisponde a questi 2500 euro versati. Ciao, ci sei? Ci hai sentito? Ci sono. E quindi niente, sono 2005, perché fra l'altro l'iscritta che sentiamo non è al TFA della Regione Lazio, ma della Regione Toscana, ma credo che non si vari tanto. Sì, sono 2200 euro in Toscana, almeno quelle che ho pagato io. E per quanto riguarda il TFA, insomma, ci sarebbero diverse cose da dire. Innanzitutto, come dicevate anche voi, i numeri, nel senso che rispetto alla SIS, questo primo ciclo di TFA ha riguardato un numero molto molto ristretto di persone, con un percorso di test e di selezione che si è articolato in tre fasi, perché c'è stato il famoso quiz dell'estate, che è stato molto estremamente contestato, anche perché c'erano molte domande che poi si sono rivelate formulate in modo sbagliato. Poi c'è stata una prova scritta tra così ottobre e novembre, infine una prova orale. Quindi diciamo, il percorso è stato questo. Quindi per entrare a fare una scuola a pagamento a 2200 euro tu hai svolto 3 prove. Esattamente, 3 prove che hanno selezionato, ad esempio per la mia classe, una trentina, che è la 37 di storia e filosofia, una trentina di persone per tutta la Toscana. Quindi diciamo i numeri sono molto molto contenuti, anche perché pare che abbiano tenuto conto, cioè pareva che avessero tenuto conto dei futuri pensionamenti, anche se in realtà queste cifre sarebbero da discutere, perché non si sa bene diciamo come le abbiano trovate, come le abbiano stabilite. E questo diciamo è il primo problema. Un altro dei problemi, almeno per quest'anno, è stato sicuramente che noi abbiamo verificato molte diciamo inadeguatezze di carattere organizzativo. Sicuramente questo è stato il primo anno, quindi un anno diciamo così di sperimentazione, di transizione. Preciso che i TFA sono comunque organizzati dalle università, con la collaborazione che non sempre si è verificata degli ex provveditorati agli studi, per intendersi. Quindi diciamo, ci dovrebbe essere una collaborazione stretta tra le varie strutture all'interno del Ministero, ma a quanto abbiamo notato noi questo non è avvenuto, tanto è vero che abbiamo ha avuto anche grossi problemi a trovare docenti che ci facessero fare il tirocinio, le scuole ovviamente oberate da mille impegni non sempre ci hanno accettato, quindi è stato tutto molto complesso. E sicuramente cioè, la mia impressione è che sia un po' una FIS però fatta in un tempo molto più contenuto, cioè un anno, e forse per il momento anche con una qualità ancora meno soddisfacente, ecco. Ma un anno sì. Da quando è cominciato nella realtà? Quante lezioni avete seguito? Almeno per quanto riguarda noi, diciamo realmente i corsi sono iniziati da febbraio, tra febbraio e marzo, quindi diciamo molto in ritardo, tant'è vero che stiamo ancora completando. E finiranno? Come? E quando finiranno? Finiranno probabilmente a fine giugno, cioè noi finiamo i corsi e poi facciamo subito questi esami. Quindi tre mesi un anno è diventato? Una serie di esami disciplinari e poi l'esame finale sarà l'esame abilitante a luglio. Quindi voi avete pagato 2.200 euro per tre mesi di lezione? Più o meno sì, diciamo sì, tre o quattro mesi di lezione. Ovviamente a mio avviso la parte più interessante rimane il tirocinio in classe, anche se appunto abbiamo avuto comunque difficoltà a trovare scuole che ci prendessero, insomma ci facessero svolgere un progetto di tirocinio, mentre come mi ricordo anche per la FIS, diciamo la proposta didattica sia in ambito disciplinare sia in ambito così pedagogico a mio avviso insomma andrebbe forse formulata meglio, perché molte delle cose che poi ci sono state proposte forse non sono così utili, insomma, ecco, per formare dei nuovi docenti che poi andranno subito buttati nella mischia, perché l'idea di Profumo era questa, insomma, no? Ci abilitiamo e poi dal successivo anno scolastico queste persone sono immesse come supplenti eccetera già nella vita scolastica. Invece ancora una volta ci troviamo a fare molta teoria, molte cose le sappiamo di già, e forse invece sarebbe stato necessario un percorso più impostato proprio su come insegnare le nostre discipline, su come progettare un anno scolastico, su come relazionarci con gli studenti e via discorrendo, insomma. Sì, credo anch'io che il problema sia questo, ma correggimi se sbaglio, però forse in parte dalle tue parole già traspariva, cioè la sensazione che se ne ha all'esterno è che il TFA sia affidato sostanzialmente alle università, che sono poi quelle che recepiscono a livello di tasse universitarie il vostro contributo, e che quindi in qualche modo quello che viene proposto da docenti che fanno corsi universitari sia un'ennesima ripetizione di aspetti, monografie e dei loro corsi universitari, ma che poco c'entrino, ad eccezione che per il tutorato nel tirocinio, gli insegnanti di scuola, gli insegnanti disciplinari. O è solo una sensazione mia esterna sbagliata? Allora, scusate, non ho sentito bene tutta la domanda. Comunque se ho colto, diciamo, il senso, effettivamente hai colto il problema, che secondo me bisognerebbe, come dire, che ci fosse un'integrazione molto maggiore col mondo della scuola nella preparazione, nella progettazione di questi corsi, perché le università, l'impressione che ancora una volta utilizzino questi, come è stato per la FIS, no? Questi percorsi come alla fine anche strumenti per rimpinguare le loro casse, certo. Diciamo in difficoltà, e che però poi non abbiano al loro interno le risorse per progettare in modo sensato questi corsi, anche perché buona parte della docente universitaria la scuola non la conosce, non cioè hanno la minima vista, idea di cosa significhi, e oltretutto non sa quali sono le trasformazioni che nel frattempo sono avvenute a scuola negli ultimi 20 anni, quindi noi diciamo dobbiamo fare tutto poi da soli, insomma, ecco. Questa cosa del TFA da Profumo è stata venduta tantissimo come un'iniziativa che voleva avere come due caratteristiche il merito e la gioventù. Quindi cioè nel senso, nelle parole di Profumo, il TFA era il modo per far arrivare a scuola gente molto preparata e molto giovane. Ci risponde a quanto tu vedi nelle tue aule queste settimane in cui vai a lezione? Senti, la mia impressione è invece un'altra, almeno per quanto riguarda la Toscana e almeno la mia classe di concorso, comunque le persone che ho incontrato in queste settimane, In realtà sono persone anche molto preparate, ma non giovani ovviamente, perché ovviamente hanno sfruttato questa opportunità, per quanto diciamo opportunità per modo di dire, in realtà persone che hanno già una un lungo percorso di formazione, persone che hanno già dottorati alle spalle, che hanno anni e anni di insegnamento alle spalle, oppure che hanno fatto comunque anni di precariato, diciamo così, nel mondo diciamo del terziario avanzato, per intendersi, che qui però a 35 anni più o meno in questa situazione hanno deciso: vabbè, utilizziamo questa opportunità del TFA, facciamo anche questa. Però diciamo giovani ce ne sono veramente pochi, perché è chiaro che poi le persone appunto un pochino più adulte hanno avuto anche più facilità a superare queste prove selettive e hanno deciso che era necessario sfruttare anche questa misera carta, insomma. Sì, e poi c'era anche il problema dei soldi, insomma, perché credo non ci fossero nemmeno esenzioni in base al reddito, sbaglio. Pronto? Mi sa che abbiamo perso la nostra corrispondente, la richiamiamo un attimo soltanto. Eccoci, ci risiamo? Ci senti? Eccomi. No, dicevo, non c'era nemmeno esenzione in base al reddito, sbaglio, per frequentare il TFA. Per quanto riguarda il nostro caso, assolutamente no. Quindi non c'era nessun modo per diminuire questa la dimensione, diciamo, di questa tassa universitaria. No, perché la SIS, che per 10 anni ci è sembrata la peggior merda che ci potesse cascare sulla testa, insomma, per dirla così in sintesi, alla fine era meglio di questo, nel senso che sì. Non era meglio, questo è peggio, nel senso che almeno alla SIS c'erano le esenzioni in base al reddito e anche delle squallide borse di studio, io ci ho pure avuto accesso. Sì, ma poi se mi è permesso coinvolgere anche la nostra corrispondente in una riflessione sul valore del titolo, la SIS ci dava un titolo che era abilitante, che ci permetteva di entrare in ruolo, tante persone sono entrate in ruolo con l'abilitazione SIS, in questo caso non è così, per cui 2200 euro, una prova articolata in 3 sessioni, il corso. Però quello che voi ottenete alla fine non è la possibilità di entrare in ruolo, ma la possibilità di essere inseriti in graduatorie di istituto e quindi di fare del precariato nella scuola per poi sostenere un concorso, o ho capito male? Ma io penso anche che questa sia la prospettiva, cioè la prospettiva è di prendere un'abilitazione per poi inserirsi nelle graduatorie e diciamo, aspettare che ti tocchi qualche supplenza. E poi guardare cosa succede in Italia nel mondo della scuola, senza però alcuna così speranza, ecco, diciamo, chi fa il TFA non ha più effettivamente in testa l'idea che nel giro di 2 o 3 anni potrebbe appunto passare il volo, avere una collocazione piuttosto definita, insomma lo facciamo per avere un'altra freccia al nostro arco, ma niente di più, sinceramente. E certo. Io sapevo che in realtà sono cambiate anche le carte durante l'anno, nel senso che il monte ore per il tirocinio, il numero di ore con ragazzi disabili, oppure anche colleghe e colleghi tirocinanti che in realtà si sono stati chiamati per fare delle supplenze e quindi hanno conciliato supplenza dentro le classi e tirocinio, sbaglio? Questo è possibile, sicuramente nel corso degli ultimi mesi ci sono stati tutta una serie di aggiustamenti, perché a quanto io ho capito si sono resi conto che, essendo appunto quest'anno un anno sostanzialmente di passaggio, alcune regole andavano cambiate in corso d'opera, quindi sono state anche in qualche caso, diciamo, è stato ridotto il carico didattico nei nostri confronti. Comunque ci sono state delle tant'è vero che va detto che noi ancora adesso non abbiamo chiarissimo quali saranno le modalità dell'esame, quali saranno i tempi dell'esame, cioè la nebbia si è dissipata poco a poco, ma ancora non abbiamo tutte le certezze, insomma, quindi è stato un po' un anno di caos per quello che ho visto io. Poi non so nelle altre regioni se la cosa sia andata nelle altre regioni, comunque insomma che ci sono stati casi virtuosi, per quello che ho sentito, insomma, c'è stata confusione un po' dappertutto. Sì, fra l'altro poi insomma vi hanno anche imposto questo in vario modo nelle varie regioni, anche come dire delle difficoltà pratiche notevoli, perché in genere si è istituito un unico TFA per materia a livello regionale, o per quanto riguarda Roma a livello metropolitano sui tre atenei, quindi non so, per esempio appunto in Toscana storia e filosofia appunto è a Siena, quindi se tu abiti da un'altra parte ci sono anche le sue difficoltà logistiche a raggiungere Siena, perché insomma non è proprio il centro del mondo, ecco, forse lo era ai tempi della via Francigena, ma adesso non lo è più. E un carico economico immagino anche per gli spostamenti. Assolutamente, assolutamente, infatti è stato un po' complicato dal punto di vista logistico, tra l'altro noi siamo tra Siena ed Arezzo, perché l'Università di Siena ha due sedi. Va detto che anche in questo caso, cioè, le università probabilmente hanno fatto un po' a gara ad accaparrarsi le singole classi, no? Per cui Firenze, a Firenze si è svolto il TFA per la 43 o per storia dell'arte, a Pisa si è svolto il TFA per matematica o fisica, a Siena per... cioè in questa gara a accaparrarsi, evidentemente a dividersi questi potenziali allievi, poi ovviamente ognuno ne abbiamo fatto un po' le spese noi, perché hanno alcune di queste soluzioni si sono rivelate anche molto disagevoli, insomma, considerando che la mattina bisogna fare il tirocinio oltretutto. Certo, e l'altra cosa che ti volevo chiedere, appunto, per sottolineare questa cosa del merito, al di là dell'adeguatezza o inadeguatezza a insegnare ad insegnare, che comunque è argomento molto complesso. Complesso, sì. Si sente anche dire che queste lezioni non sono proprio di livello molto alto, ecco, queste lezioni per cui si paga 2.200 euro per tre mesi. No, non lo sono, un po' per i motivi che si dicevano prima, insomma, perché... probabilmente appunto la progettazione di questo TFA si è svolta in modo molto rapido, anche un po' caotico, quindi non sembra esserci dietro, diciamo, un'idea chiara, insomma, di quello che appunto significherebbe insegnare o cose del genere. Ha anche detto che a quanto si è capito, diciamo, il personale utilizzato, il personale universitario appunto, non ci sono, a quanto si è capito, i fondi per utilizzare, per chiamare anche persone da fuori, quindi insegnanti di scuola superiore, probabilmente sono stati molto ridotti, per cui diciamo, hanno fatto un po' le nozze con i fischi secchi, e quindi hanno, per esempio, in tanti casi hanno chiamato persone anche, incaricato persone in modo anche molto rapido, da una settimana all'altra, quindi insomma poi si è vista molta improvvisazione, ecco, questo va sottolineato, molta improvvisazione e una scarsa consapevolezza da parte di molti di coloro che ci hanno fatto lezione di che cosa dovrebbe essere questo TFA. Cioè, a volte ci hanno fatto lezioni cattedratiche, lezioni frontali su argomenti anche interessanti, ma sinceramente niente che ci possa davvero essere utile, se poi fortuna volesse che a settembre qualcuno di noi potesse richiamato in una classe, insomma, cioè non ha, niente, insomma, niente che ci possa dare davvero una, come dire, anche stimolare e formare come avremmo forse avuto diritto, insomma. Senti, prima di chiudere approfittiamo di te per sapere, visto che immaginiamo che tu sia informata, come va invece il concorso a cattedra istituito da Profumo in Toscana, visto che anche quello è regionale. Dunque, a quanto ho capito è uscito intanto soltanto, sono usciti soltanto i risultati di francese, sono messi bene anche in Toscana le correzioni. E anche perché, come sapete benissimo, hanno avuto grosse difficoltà a formare le commissioni, sì, sì. E quindi noi attendiamo fiduciosi che almeno vengano fuori, insomma, tra giugno e luglio vengano fuori i risultati, però cioè, pare che dobbiamo attendere ancora qualche settimana. Ok, quindi anche a questo Profumo ha risposto alle aspettative, aveva detto velocissimo, a giugno sarà chiuso il concorso. Alle aspettative che aveva creato lui stesso, peraltro, non è che erano le nostre. Anche perché nessuno lo voleva questo concorso, no. Quindi. Infatti. Niente, credo che ti possiamo ringraziare per aver partecipato all'ora di buco e in bocca al lupo. In bocca al Grazie lupo, a sì. Voi, ciao a tutti e a tutte. Ciao. Questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, questa è Radio Onda Rossa. E dopo avervi aggiornato sul TFA, un breve aggiornamento invece su quello che è appunto lo stato del concorso, cioè il concorso di cui abbiamo parlato molto da questi microfoni, indetto dal ministro Profumo per immettere a ruolo una miseria di 11.000 persone a livello nazionale. Ne abbiamo parlato molto in passato proprio per insomma abbiamo visto gran parte insomma degli elementi pesantemente criticabili di questo concorso, dal fatto stesso che sia stato indetto, a com'era l'accesso, eccetera eccetera. Abbiamo al corrispondenza insomma una compagna del coordinamento precari scuola di Roma. Pronto, ci senti? Salve, sì, buon pomeriggio a tutti. Ciao. E niente, volevamo sapere da te un aggiornamento sul concorso, che sta succedendo? Niente, sta succedendo niente sostanzialmente, che le prove proseguono molto a rilento e quindi ci sono regioni che stanno andando avanti mentre altre in cui, come la Toscana, in cui le correzioni non sono proprio state ultimate in nessuna classe di concorso. Quindi l'impressione che si ha è che insomma questa macchina organizzativa già organizzata molto male funzioni veramente malissimo e che quindi insomma non, per settembre non ci saranno assolutamente diciamo le persone che dovevano poi entrare in ruolo quest'anno praticamente per l'anno 2013-2014. C'è un rallentamento nelle correzioni a causa diciamo del dissenso degli stessi insegnanti commissari che pagati pochissimo sono costretti a lavorare anche sabato pomeriggio e insomma tra l'altro hanno anche denunciato parecchi che il tempo per correggere ogni prova è minimo e addirittura non si può neanche rileggere il compito per la fretta che viene portata e poi chi appunto ha richiesto di sappiamo anche di casi di persone che hanno richiesto insomma di non essere più commissari ma sostanzialmente non è stato permesso, insomma ci sono vari problemi nella correzione dei compiti, cioè li hanno imprigionati anche dentro che hanno fatto sì. Ah, ok. Non ho capito, mi scusi, si sente molto male. No, dicevo, li hanno imprigionati dentro questi che volevano smettere. Ah, in realtà c'è qualche articolo proprio su Orizzonte Scuole in cui proprio si parla di insegnanti praticamente quasi ecco braccati sostanzialmente, quindi veramente portati a correggere anche il sabato pomeriggio e poi si parla di correzioni che continueranno quest'estate, quindi a luglio e con le prove poi orali ad agosto, addirittura quindi si parla di ferie che saltano sostanzialmente, di ferie insomma che non verranno godute perché saranno impegnati negli esami. In tutto questo insomma è una situazione in cui si dice che si metteranno in ruolo almeno il 50% delle persone, però da questo punto pensiamo veramente di no e tra l'altro non va dimenticato che proprio a causa della riforma Fornero il numero dei posti disponibili si è anche ridotto, tant'è vero che un mesetto fa uscì sempre su internet la notizia secondo la quale le missioni in ruolo sarebbero state proprio posticipate addirittura, cioè divise addirittura in 3 anni, cioè le missioni in ruolo dal concorso, proprio perché i posti sarebbero minimi, quindi a questo punto viene anche il sospetto che in effetti questo rallentamento sia anche diciamo legato in parte al fatto che poi questi posti effettivamente non ci sono del tutto, come già non c'erano prima quando il concorso è stato bandito in effetti. Cioè perché quindi sarebbero meno di 12.000 posti divisi in 3 anni a livello nazionale, meno di 4.000 assunzioni l'anno, cioè niente. Niente. Questa cosa sarà più volte denunciata prima che il concorso venisse fatto, perché su più di 300.000 candidati veramente 11.000 posti era tipo un rapporto di 1 a 30 quasi, quindi era veramente assurdo che si facesse un concorso quando poi c'erano già le graduatorie strapiene di persone abilitate e tra l'altro contemporaneamente insomma le esuberi di varie classi di concorso che vanno avanti insomma da quando è entrata a regime la riforma Gelmini e quest'anno tra l'altro ce ne saranno altri dei esuberi e quindi i risultati li vedremo poi quest'estate. Inoltre sempre quest'anno ricordiamoci che sono stati attivati i TFA e adesso arriveranno insomma anche a conclusione questi, quindi ci saranno nuovi insegnanti abilitati che non si sa bene insomma che fine faranno. Quindi in effetti una situazione di caos totale nel reclutamento, ma soprattutto cioè per quanto riguarda i numeri, perché se la scuola non viene finanziata e quindi se non si investe e se non si creano i posti si possono fare tutti i concorsi che vogliono, si possono far abilitare tutti quelli che vogliono insomma col TFA, però in effetti poi i posti non ci sono realmente e quindi non facciamo altro che diventare tutti quanti precari, qualcuno più precario di un altro, ma alla fine tutti senza lavoro sostanzialmente, quindi ci vuole un rifinanziamento e basta, senza insomma gettare fumo negli occhi come hanno fatto con questo concorso. Niente, quindi ci confermi che tutto questo diciamo sta diventando grottesco, nel senso che già era inutile perché avevano già pronti i nomi, anzi anche in abbondanza. È stato il fumo negli occhi che Profumo, certo, ha dato a tutti, sì, a tutta Italia. E adesso a me pare un miracolo che ci sia ancora qualche docente che si mette a correggere praticamente gratuitamente, se non 50 centesimi, no? Sentivamo. Sì, praticamente sì, gratuitamente, perché il compenso, ne abbiamo parlato anche altre volte, comunque è 209 euro lordi complessivi più 50 centesimi a compito corretto e altri 50 centesimi per ogni candidato interrogato. Se è vero, come dici, che vanno di fretta, sarà evidentemente perché lavorando a Cottimo hanno interesse a ampliare il guadagnato. Beh, noi avevamo messo in guardia, no, i nostri colleghi dal fare, dal collaborare, entrare dentro questo meccanismo che è veramente perverso, e quindi le lamentazioni che qualche organo di stampa anche nazionale famoso sta pubblicizzando, diciamo all'opinione pubblica, sta offrendo all'opinione pubblica come persone che soffriranno d'estate per correggere, è molto semplice: non lo fate, non lo fate. Sì, apprendiamo adesso segregate e non possono, sì, più tirarsi indietro. Liberiamo tipo i nani da giardino, dalle ville, liberiamo questi colleghi dalle commissioni per il concorsino. Senti, ci sei ancora, ci ascolti, sì. Pronto? Stai parlando con me? Non si sente, sì, molto bene. No, non ci senti. Il telefono prende malissimo, scusatemi. Quindi no, sento veramente molto piano. No, niente, ti volevo chiedere, non, sì, so se sei dentro anche a questa faccenda, prima di chiudere, c'è stato, sì, nel mezzo anche lo scandalo del TFA speciale. Sì. Ci vuoi spiegare cos'è? Praticamente il TFA speciale è un TFA destinato a chi già ha 3 anni di insegnamento, e tra l'altro nella scuola pubblica o paritaria, però con un contratto a tempo determinato. E niente, quindi dovrebbe partire anche questo TFA speciale, però la cosa divertente è per l'anno 2012-2013, ma siamo già ampiamente alla fine del 2013, ma non è mai partito praticamente, quindi perché evidentemente stanno avendo delle difficoltà. E quindi insomma, tra l'altro, ecco, agli abilitati del TFA ordinario si aggiungeranno poi quelli del TFA speciale quando partiranno, e quindi questa è un'altra presa in giro per tutti quanti i colleghi che già hanno lavorato, cioè 3 anni nella scuola, e comunque non riescono ad abilitarsi in nessun modo, neanche con questo TFA che doveva appunto partire già ormai da tanto tempo. E se partirà, in effetti si aggiungeranno insomma agli abilitati del TFA ordinario anche quelli del TFA speciale, e saranno altre svariate centinaia di migliaia insomma di persone. Quindi è proprio, diciamo, una politica dissennata e quindi anche proprio di svilimento della professione dei docenti. Questa è un'altra prova del fatto che insomma non ci si investe proprio sulla formazione degli insegnanti, e appunto non si vuole investire minimamente sulla scuola e su chi la scuola la fa e la vive ogni giorno. Insomma, ci sarà il caos, perché avremo i precari della graduatoria, le persone non abilitate che non sono passate al concorso né entrano nei TFA, quelli invece usciti dai TFA e quelli usciti anche dai TFA speciali, che però neanche sono partiti per evidenti insomma problemi della macchina burocratica. E appunto l'anno prossimo ci ritroveremo poi con meno possibilità di immissione in ruolo a causa del pensionamento, diciamo, quasi dimezzato rispetto a quelle che erano le previsioni dell'anno scorso, e quindi ecco, con più persone precarie rispetto a quest'anno e con niente di nuovo. Il punto è che i colleghi appunto precari dovrebbero aprire le orecchie e guardare bene a quello che poi è il progetto politico di questa classe dirigente, che non ha saputo creare posti di lavoro in nessun campo, tantomeno in quello della scuola. E appunto il fine, secondo me, secondo appunto i miei colleghi, tanti colleghi docenti, tra cui appunto i colleghi precari, e il fine in effetti è quello proprio di svalutare sempre di più la scuola pubblica, dequalificarla e delegare tutto, diciamo, al privato. Insomma, ecco, quello appunto di finanziare il privato e basta. Noi ti ringraziamo molto per aver partecipato. Grazie a voi, anche scusatemi se non sentivo benissimo, perché ovviamente sento poco. Alla trasmissione. Ah, un'ultima cosa che, se posso ricordare, prego, perché pochissimi ne parlano, è il risultato del referendum di Bologna, che c'è stato il 26, e in effetti era sui finanziamenti del comunale di Bologna, la scuola privata. Sì, noi ne abbiamo parlato molto, guarda. Tre puntate. Ho soltanto ricordato perché se ne parla pochissimo, quindi ha vinto la scuola pubblica. Sì, no, perché evidentemente le persone vogliono la scuola pubblica, i dirigenti vogliono altro. Però poi ecco, i risultati referendari spesso non vengono ascoltati e rimangono disattesi. Speriamo che insomma questo sia un inizio per parlare della scuola pubblica rispetto insomma alla scuola privata, quanto viene tolta all'una per essere poi data all'altro. Grazie. Grazie a te. Ciao. Arrivederci, grazie. E questo insomma era l'ultimo argomento anche per oggi, insomma sappiamo, possiamo già prevedere, non so, lo possiamo dire al Sole 24 Ore a chi, che l'anno prossimo ci sono più disoccupati e disoccupate che non quest'anno. Beh sì, una bella sintesi di quello che è stata anche questa trasmissione, che ha toccato un po', no, con mano quello che succede a chi vuole entrare nel mondo della scuola e le prospettive future realistiche, diciamo. Voglio ricordare questo concorso, oltre ad aver battuto gran cassa per mesi e mesi facendo propaganda al ministro, è costato 160 milioni circa di euro, ha occupato scuole di tutta Italia impedendo quindi giornate intere di diritto allo studio. Per esempio nella mia, è stata, la mia scuola è stata chiusa 3 giorni per fare spazio al concorso, così è successo a molte altre, eccetera eccetera, insomma le cose non sono gratis. Sì, io voglio invece ribadire un'altra cosa che abbiamo detto, ma forse è passata un po' così, cioè che il concorso è stato bandito sulla base di 11.000 posti disponibili e un governo che fa della sua bandiera l'efficienza non ha tenuto conto degli esiti della riforma Fornero facendo il calcolo dei posti disponibili e quindi si troverà inevitabilmente, come è stato detto, a dilazionare l'immissione in ruolo che era stata prevista invece nell'immediatezza dell'espletamento delle procedure del concorso. E finisco dicendo che 11.000 posti sono la metà di quanto ha assunto mediamente ogni anno la Gelmini, cioè quando si diceva non ci sono più assunzioni. La ministra che tagliava, cioè, sì, la ministra che ha tagliato 100.000 posti di lavoro posti, sostanzialmente, in quegli anni si entravano in ruolo circa 22.000 persone l'anno, con questo concorso ne entra la metà. Distribuite su 3 anni, abbiamo sentito, no, perché si abbia nozione insomma di cosa stiamo parlando. Un grande successo del governo tecnico. Sì, è sostenuto da chi politici. Oggi è al governo. E niente, insomma, con questo vi salutiamo, ci sentiamo martedì prossimo. Questa è appunto L'Ora di Buco, Radio Onda Rossa. Vi lasciamo al martedì autogestito da femministe e lesbiche e invece appunto L'Ora di Buco martedì prossimo alle 16. E noi vi cara maestra, un giorno mi insegnavi